L'occhio tuo, che l'occhio so conviette, che quando rirono, regna la panza e o coro in pietta. So chi ne zucchero e cioccolata, che lasciano dolce in bocca e o coro malata.